Le nostre origini umane. Come si produsse questo salto evolutivo nella nostra specie è oggetto di ampie controversie, mentre gli studiosi hanno cercato di ricostruire quelle che chiamano le nostre origini ominidi. Siccome non è sopravvissuto alcun rappresentante di questi anelli mancanti, nella spirale evolutiva che porta alla comparsa della nostra specie, i sociobiologi che fanno congetture sull'organizzazione sociale degli ominidi, hanno ricercato modelli innanzitutto nell'ordinamento sociale dei nostri parenti più prossimi, le scimmie. Ovviamente, all'inverso di ciò che si crede correntemente, le scimmie non sono le nostre antenate, perciò questi modelli non sono altro che congetture. Tuttavia, siccome le specie viventi di scimmie paiono discendere da antenati comuni, quei primati, cioè da cui si sono evoluti gli esseri umani, osservare questi animali è più proficuo che non occuparsi di animali meno strettamente imparentati e più distanti nella sequenza evolutiva. Probabilmente non sapremo mai con sicurezza come i nostri antenati ominidi strutturassero le loro relazioni sociali, che includono quelle sessuali. Nella migliore delle ipotesi, i modelli sociali degli ominidi ci danno modo di riflettere sul numero di possibili radici nell'ordine dei primati della nostra specie. Sicuramente questi modelli ci danno modo di riflettere su noi stessi, sulle convinzioni prevalenti a proposito della natura umana e della sessualità umana e forse, cosa ancora più importante, su come queste convinzioni cominciano oggi a cambiare. Insieme con il Macacus rhesus o Bandar, genere di scimmie organizzate su rigide scale gerarchiche, molto litigiose e generalmente aggressive, spesso usato per spiegare comportamenti simili negli esseri umani, il babbuino è stato spesso scelto come primate prototipo dell'ominide dell'evoluzione umana. O per meglio dire, questo prototipo si basava sull'immagine del babbuino diffusa prima che le ricerche condotte da scienziati quali Jean Altman, Thelma Rowell, Robert Seyfarth, Barbara Smuts e Shirley Strom hanno rivelato che la società del babbuino non è così fortemente dominata dal maschio e strutturata militarmente come si credeva nel passato. Come scrive Linda Marie Fedigan, un'antropologa che ha condotto ampie ricerche in questo campo, esistono parecchie versioni del modello dei primi esseri umani che utilizzano l'analogia con il babbuino, ma tutte hanno in comune la seguente formula di base. Prendete una normale società di babbuini, aggiungete la caccia e le conseguenze che comporta e la somma sarà pari alla vita sociale umana primordiale. Il più noto di questi modelli di ominidi derivati dal babbuino è la teoria dell'uomo cacciatore, proposta a tempo addietro da autori quali Robert Hardrey, Robin Fox, Lionel Tiger e Sherwood Washburn. Fondamentalmente, essi argomentavano che il predominio maschile e un'organizzazione sociale fortemente gerarchica, tenute insieme da forti dosi di competitività aggressiva basata sulla paura e la forza, caratterizzavano le società di ominidi e le prime società umane. In altri termini, secondo questa teoria, lo sviluppo di una società sul modello della dominanza e lo sviluppo della società ominide e poi della società umana sono la stessa identica cosa. Una caratteristica saliente della teoria dell'uomo cacciatore è il suo proporre che il legame che portò alla creazione delle prime comunità umane fosse il legame tra maschi per ottenere migliori risultati nella caccia. Tuttavia, come molti scienziati hanno rilevato in seguito, la caccia non è una delle attività fondamentali tra i primati non umani, né tale era tra i primi ominidi. I resti fossili indicano che, come le scimmie, si mantenevano in vita seguendo una dieta prevalentemente vegetariana. In effetti, anche nelle comunità umane contemporanee, tuttora dedita alla raccolta, la maggior parte delle calorie è fornita dai prodotti della terra, tanto che, secondo l'antropologo Ashley Montague, dovrebbero essere chiamate di raccolta e caccia e non di caccia e raccolta. Anche se la carne della cacciagione è apprezzata, la dieta si compone soprattutto di verdura e frutta e di una limitata fonte di proteine animali, come le lumache e le rane. Perciò, nelle sue premesse fondamentali, la teoria dell'uomo cacciatore per l'organizzazione sociale degli ominidi e dei primi esseri umani poggia su un terreno assai instabile. In alternativa, la paleoantropologa Adrienne Zillmann e l'antropologa Nancy Tanner propongono una spiegazione assai diversa del legame che fonda la società umana. La loro teoria, che considera lo scimpanzé comune il prototipo pre-ominide, suggerisce che fu mediante la spartizione del cibo raccolto tra madre e figli e non attraverso il legame maschile connesso alla caccia, che i nessi sociali su cui si fonda la società umana si sono inizialmente evoluti. In contrasto con i teorici dell'uomo cacciatore, che dicono che i primi strumenti umani furono i bastoni e i sassi usati dagli uomini come armi per uccidere animali e altri esseri umani, le due studiose suggeriscono che furono le femmine a usare i primi strumenti umani per aumentare, conservare e trasportare il cibo raccolto che dividevano con la prole. A supporto di ciò, citano dati secondo cui le femmine degli scimpanzé, che come le madri umane dividono il cibo con la prole, sono oggi le più abili utenti non umani di strumenti e spesso usano bastoncini per svellere meglio le radici e raccogliere piccole creature che forniscono proteine animali. E affermano che le madri ominidi, le quali dividevano il cibo con la prole e dovevano pertanto raccoglierne a sufficienza, seguivano questa pratica e molto probabilmente foggiarono i primi contenitori per trasportare e immagazzinare il cibo e cominciarono a usare le pietre come pestelli per ammorbidire le fibre vegetali per i loro neonati ancora sdentati. Inoltre, Tanner e Zillman propongono una visione dei primi rapporti sessuali, molto diversa da quella proposta dal modello delle origini umane dell'uomo cacciatore. In quest'ultimo si dava per scontato che le femmine ominidi dipendessero dai maschi, sia per il cibo, sia per la protezione degli altri maschi. Così la conclusione era che le femmine sceglievano per l'accoppiamento i maschi più aggressivi. Invece, come indicano Tanner e Zillman, tra gli scimpanzé ma anche tra i babbuini, le femmine non soltanto si raccolgono il cibo da sole, ma spesso mostrano una decisa preferenza nei rapporti sessuali per maschi poco aggressivi, amichevoli e che non le spaventano o minacciano. Di conseguenza, le studiose suggeriscono che forse anche fra le femmine ominidi l'accoppiamento si svolgesse più frequentemente con maschi meno aggressivi e più socievoli. In altri termini, secondo loro, i primi rapporti sessuali tra ominidi e tra uomini si basavano più sui legami di reciproca fiducia che sulla paura e la forza, oppure, per dirla altrimenti, nei rapporti sessuali e sociali si conformavano a un modello improntato alla partnership più che alla dominanza. Accantonando per un attimo i dettagli più tecnici, è chiaro che ognuna di queste teorie sulle origini degli ominidi e dell'uomo suggerisce che uno specifico tipo di organizzazione sociale e sessuale è naturale per la nostra specie. Però è possibile affrontare la questione anche diversamente. Noi siamo una specie caratterizzata da un'immensa variabilità, non soltanto fra i differenti individui, ma anche tra i differenti gruppi. Come si può constatare guardandosi attorno, sia le donne sia gli uomini sono capaci di un'ampia gamma di comportamenti, dall'aggressività più egocentrica alla più tenera premurosità. Noi esseri umani possiamo avere, in effetti abbiamo, rapporti strutturati primariamente su gerarchie fondate sulla paura e la forza, oppure su legami di mutua fiducia. Si potrebbe così dire che entrambi questi modi di strutturare i rapporti umani siano naturali nel senso che rientrano nel nostro repertorio umano e perciò che entrambe le società orientate primariamente sul modello della dominanza o su quello della partnership costituiscono possibilità umane. Propongo pertanto, a integrazione della teoria della trasformazione culturale, una nuova teoria sull'evoluzione ominide e sulla primitiva evoluzione culturale. Una teoria non monolitica che abbraccia anzi l'evoluzione di organizzazioni sociali diverse. Nello specifico suggerisco l'ipotesi che l'organizzazione sociale umana, e ominide prima, non abbia seguito un'unica via lineare, ma piuttosto una varietà di sentieri, alcuni primariamente orientati sul modello della dominanza e altri sul modello della partnership. Una teoria simile è in realtà più conforme al principio fondamentale della sociobiologia e dell'antropologia, secondo cui, nei limiti della flessibilità o della mancanza di flessibilità dell'organismo, il comportamento sarà adattato a un dato ambiente e, pertanto, dobbiamo aspettarci una certa variabilità sia nel comportamento animale sia in quello umano. E in effetti è proprio così. Una teoria multilineare, invece che unilineare, dell'evoluzione ominide e umana è anche più consona alle prove esistenti, che esamineremo sulla nostra preistoria. E tale teoria trova un nuovo interessante sostegno nelle notizie che stanno venendo alla luce su un primate che solo da poco è diventato oggetto di studio, il cosiddetto scimpanzé nano o bonobo. degli scimpanzé fuori dal comune. Dico cosiddetti scimpanzé nani perché in realtà i bonobo non sono più piccoli per dimensione o peso degli scimpanzé propriamente detti, da cui, secondo i calcoli dei biologi, si distinsero solamente circa 1,5 milioni di anni or sono. E dico che soltanto di recente sono stati studiati, perché a lungo i bonobo furono erroneamente classificati come normali scimpanzé adolescenti e non come una specie distinta. Pertanto solamente nel 1928 vennero scoperti e fu solo nel 1972 che cominciarono a essere studiati nel loro habitat naturale. Rispetto allo scimpanzé comune, il bonobo ha una struttura più gracile o esile, zampe più lunghe che si tendono quando cammina, una testa più piccola, orecchie più piccole, un collo più sottile, un muso più aperto con la fronte più alta, l'arcata sopraccigliare più sottile, labbra rossastre e lunghi peli sottili divisi al centro. In altri termini, i suoi tratti lo avvicinano molto nell'aspetto agli esseri umani. I genitali delle femmine sono ruotati in avanti come quelli delle donne, il che rende loro possibile fare sesso a faccia, come gli esseri umani, e non come accade nella maggior parte degli altri primati, con il maschio che monta. I maschi sono anche sessualmente più simili ai maschi umani, con un pene lungo che, contrariamente agli organi piuttosto piccoli di altre scimmie, supera quello del maschio umano, come scrive De Waal. Negli ultimi 10 anni l'osservazione scientifica dei bonobo ha fruttato novità affascinanti. Di particolare interesse e di speciale rilevanza per il nostro tema è il dato che le interazioni sociali tra bonobo sono di gran lunga meno tese e aggressive che tra gli stessi scimpanzé comuni. Non si vuole con questo dire che non si danno mai casi di violenza o di aggressività, ma, come riferisce Suhisa Kuroda, primatologo all'Università di Kyoto che ha studiato i bonobo nello Zaire, il loro comportamento aggressivo è moderato e nel comportamento in generale si coglie una grande tolleranza, specie tra i due sessi e tra femmine. E scrive il collega di Kuroda, Takayoshi Kano, che studia i bonobo sin dal 1974, che a differenza di quanto accade tra gli scimpanzé comuni, non si sono mai visti i bonobo uccidere membri della loro specie. Ma non soltanto i bonobo sono generalmente più pacifici e gregari. Altrettanto interessante è il dato che la loro organizzazione sociale non è caratterizzata dal predominio del maschio. In realtà, come vedremo, la loro è una società in cui le femmine, in particolare se madri, svolgono importanti ruoli sociali. Non di rado queste scimmie spartiscono tra loro il cibo, il che è frequente fra gli esseri umani, ma non tra gli altri primati, se si escludono le madri e i loro figli. I bonobo, in particolare le femmine, non soltanto tendono a nutrirsi insieme in santa pace, ma di frequente il loro approccio all'altro consiste in una richiesta di cibo. Per la verità, se ancora si discute per stabilire se è più importante il legame femmina-maschio o femmina-femmina, Kano, Kuroda, Amy Parish, Franz White e altri che hanno studiato i bonobo concordano tutti sull'importanza che assumono nella loro organizzazione sociale quelli che Kano definisce i forti legami tra maschi e femmine e la grande socievolezza delle femmine. Torneremo spesso su questa questione delle affinità o dei legami tra femmine e femmine, tra femmine e maschi. Uno dei motivi è che nelle società rigidamente dominate dal maschio, le femmine vengono attivamente dissuase dallo stringere forti legami, se non in quanto membri di famiglie e organizzazioni controllate dal maschio. Un altro è che se l'amicizia femmina-maschio è una componente integrante di un'organizzazione sociale improntata alla partnership, essa è di grave ostacolo alla costruzione di rapporti sul modello della dominanza, come drammaticamente dimostrano le società gerarchiche, autoritarie e rigidamente dominate dal maschio, laddove il fondamentalismo islamico detta legge e dove la segregazione sessuale è un elemento importantissimo per il mantenimento del controllo maschile, non soltanto sulle donne, ma sull'intero sistema. Ecco perché risultano estremamente interessanti i legami di affiliazione tra maschi e femmine bonobo. Spesso questi legami sono associazioni durature tra le madri e i loro figli adulti, ma i legami, così, esistono anche tra maschi e femmine non legati da parentela e anche tra maschi e femmine che hanno rapporti sessuali. Per esempio, Osservando i bonobo nello zoo di San Diego, De Waal scoprì che quando una catena utilizzata da un maschio adulto, che lui chiamava Vernon, per salire e scendere da un fosso di 2 metri veniva trascinata via da un piccolo burlone, una femmina, che De Waal chiamava Loretta, in varie occasioni intervenne in soccorso del suo compagno riportandogli la catena. E De Waal interpreta questa interazione affiliativa come atto determinato dall'empatia di Loretta per il maschio con il quale le capitava di fare del sesso. Non si vuole con ciò affermare che i bonobo siano monogami. Sebbene si sia osservato che talvolta le femmine si accoppiano con un solo maschio, è dimostrato che questa è ben lungi dall'essere una pratica universale. Nonostante siano stati documentati 4 casi in cui una femmina copulava almeno 2 volte al giorno con lo stesso maschio e nessun altro, scrive Cano, in altri 4 casi una femmina copulò con più di 2 maschi lo stesso giorno. In un altro caso, ancora, una femmina copulò alternativamente con 2 maschi, 3 volte per ciascuno. Ma, come osservano Cano, De Waal e altri che hanno osservato i bonobo sia nel loro ambiente naturale sia in cattività, tra questi primati i rapporti sessuali hanno l'importante ruolo di promuovere relazioni sociali basate sul reciproco vantaggio o più specificatamente sul piacere reciproco. Come scrive Cano, per lo più gli altri animali copulano solamente al fine di riprodursi, mentre tra i bonobo le copulazioni senza scopi riproduttivi riducono l'ostilità e contribuiscono a creare e mantenere l'intimità tra femmine e maschi. Il sesso con fini diversi dalla riproduzione è ovviamente un ulteriore tratto che i bonobo condividono con la nostra specie. Lo è anche il fatto che, come dice De Waal, a paragone del sesso funzionale, talvolta noioso del comune scimpanzé, per i bonobo il sesso contempla ogni possibile variazione, dal bacio con la lingua in bocca e la fellazio alla masturbazione e al sesso di gruppo, come se, riprendendo ancora una volta le parole di De Waal, seguissero il Kama Sutra. Si aggiunga il fatto che questi scimpanzé nani hanno talvolta rapporti in posizione frontale e non soltanto, come accade per lo più agli animali, gli scimpanzé comuni compresi con il maschio che monta. Il fatto che le femmine di questa specie possono essere sessualmente attive, molto più a lungo di altri animali, compresi gli scimpanzé comuni, e copulare entro più breve tempo dopo il parto, dunque, quanto accade tra i bonobo, indica un importante sviluppo evolutivo. Si tratta di un movimento evolutivo in direzione del sesso come mezzo per rafforzare i rapporti sociali basati sul dare e prendere il piacere sessuale condiviso invece che sulla coercizione e la paura. Tutto ciò conduce a un altro aspetto ancora di quello che De Waal chiama l'erotismo appassionato dei bonobo e che potrebbe sorprendere alcuni lettori. Un aspetto singolare nella società degli scimpanzé nani è quello che definiremo del sesso lesbico. In effetti, lungi dall'essere innaturali, i rapporti omosessuali tra primati paiono essere tutt'altro che infrequenti, per quanto irritante ciò possa essere per quei moralisti del sesso che condannano l'omosessualità come fenomeno innaturale. Per esempio, Barbara Smuts e John Watanabe rivelarono che i babbuini maschi talvolta usano la monta come mezzo per alleviare la tensione. Anche i bonobo usano la monta maschio-maschio, come pure lo strofinamento del posteriore, per ridurre la conflittualità tra maschi. Ed è sempre questa, sembrerebbe, una delle principali funzioni del sesso tra femmine nella società dei bonobo. Dunque, Cano scrive di un modello di comportamento che appartiene solo alle femmine dei bonobo, che è stato chiamato sperimentalmente strofinamento dei genitali. Di solito ha luogo nei pressi di uno degli alberi delle cui foglie si nutrono e succede di solito quando gli scimpanzé sono appena arrivati in gruppo in un luogo dove si trova del cibo, mentre si apprestano a consumare il loro pasto. Prima di cominciare, tuttavia, e probabilmente per alleviare le tensioni, spesso si svolge un'interazione sessuale molto ritualizzata tra le femmine dei bonobo. Così Cano descrive la scena. La femmina A si avvicina alla femmina B. Resta in piedi o siede accanto a lei e la fissa in volto. Se B non dà alcun cenno di risposta, A richiede la sua attenzione magari strofinandole un ginocchio o un piede con il suo piede. Allora B magari risponde con un gesto appena accennato, per esempio voltandosi per incontrare lo sguardo di A. Poi l'uno o l'altra lancia un invito, ricadendo sulla schiena o appendendosi a un ramo. Si abbracciano e cominciano a strofinare genitali contro genitali, probabilmente la clitoride, ritmicamente e rapidamente. I riti del sesso, dell'amicizia e della condivisione. Noi siamo soliti pensare ai rituali in rapporto con la religione, mentre da un punto di vista antropologico i rituali sono comportamenti formalizzati che comunicano significati simbolici compresi da tutti. Siccome i rituali sono spesso associati a situazioni dalla forte carica emotiva, praticamente ogni società umana possiede dei rituali associati alla nascita, all'accoppiamento e alla morte. E poiché i rituali hanno spesso il fine di ridurre la tensione e sollecitare l'unione, noi esseri umani abbiamo sviluppato anche quei movimenti ritualizzati come la stretta di mano, come mezzo per comunicare intenzioni amichevoli e non ostili quando ci incontriamo. Similmente, le specie come i lupi e i babbuini hanno sviluppato gesti e suoni ritualizzati, atti a evitare spargimenti di sangue quando si incontrano. I cani e gli orsi e gli altri mammiferi si leccano per comunicare qualcosa che è per noi molto simile all'affetto. L'abbraccio è comune fra molte scimmie, in quanto come gli esseri umani questi primati paiono avere un gran bisogno di toccare ed essere toccati. E tutte e due le specie di scimpanzé come gli esseri umani hanno sviluppato il bacio, ma particolarmente interessante è il fatto che tra i primati cominciamo anche a osservare l'uso del sesso non a scopo riproduttivo, quale sviluppo evolutivo adattivo per ridurre una violenta conflittualità. Questo ricorso al sesso per ridurre la tensione e promuovere la coesistenza pacifica è particolarmente impressionante fra i bonobo, in quanto ha spesso lo scopo di ridurre le tensioni tra e dentro i gruppi. Come abbiamo visto, serve a incoraggiare la condivisione del cibo tra le femmine quando un gruppo numeroso arriva in un sito di foraggiamento. Talvolta è anche connesso alla condivisione del cibo tra individui femmine e maschi, come quando Kahn osservò una femmina invitare un maschio a copulare, con l'evidente aspettativa che poi avrebbe diviso il cibo con lei, il che egli fece, in un'affascinante analogia con l'uso umano di mangiare insieme, prima o dopo il sesso. E Kahn riferisce pure che, come ebbe modo di osservare quando due diversi gruppi di bonobo giunsero nello stesso luogo di foraggiamento, la tensione fu allentata prima dall'incontro tra una femmina e un maschio appartenente a ciascun gruppo e poi dallo strofinamento dei genitali in cui la femmina di un gruppo coinvolse varie femmine dell'altro. Questa nuova conoscenza dell'uso fra i bonobo del sesso senza fini riproduttivi in quello che De Waal chiama un rituale di pacificazione solleva interessanti quesiti sull'evoluzione dei primati, ominidi ed esseri umani inclusi. Per certo contraddice sia la tesi dell'uomo cacciatore, secondo cui i legami sociali trovano origine nella caccia, sia l'assunto che nell'organizzazione sociale dei primati, esseri umani inclusi, il vincolo maschile debba essere primario. E il fatto che possiamo osservare una così diffusa pratica della condivisione del cibo fra gli scimpanzé nani, che come le altre scimmie di solito cacciano ben poco, contraddice pure un'altra premessa fondamentale della teoria dell'uomo cacciatore, che la condivisione del cibo sia cominciata con i nostri antenati ominidi e solamente quando i maschi cominciarono a cacciare. Come osserva Kuroda, il fatto che presso questo abitatore delle foreste lo scimpanzé nano, se osservi la condivisione di cibi vegetali, suggerisce la possibilità che i primi ominidi della foresta avessero già acquisito questo comportamento sociale e pare annullare l'ipotesi secondo cui la condivisione del cibo trasse origine dalla condivisione della carne. Afferma che bisognerebbe piuttosto considerare che gli ominidi della foresta avevano già sviluppato questo comportamento sociale umanitario e pertanto fu loro possibile passare sul terreno aperto, dove la vita richiede una quotidiana condivisione del cibo. Kahn propone anche altre interessanti tesi su come si sviluppò questo comportamento sociale umanitario. La prima si riconnette al sesso, al fatto che, come abbiamo visto, la condivisione del cibo è grandemente facilitata da quello che chiama il variato repertorio sessuale dei bonobo per la riconciliazione e per la pacificazione. La seconda riguarda la famiglia e l'organizzazione sociale, il fatto che tra i bonobo, e sorprendente la rassomiglianza con le organizzazioni sociali delle società preistoriche più pacifiche che esamineremo, le madri svolgono un importante ruolo sociale. Come Zillman e Tanner, Kahn è convinto che furono molto probabilmente i forti vincoli madre-figlio a portare alla condivisione del cibo gli ominidi e gli esseri umani. In effetti, suggerisce perfino che lo sviluppo di una famiglia umana composta da genitori e figli si sarebbe più facilmente evoluta a partire da un'organizzazione sociale, in cui, come tra i bonobo, si rilevano vincoli madre-figlio forti e duraturi. Crede che, avendo sperimentato tali rapporti non soltanto da piccoli, ma anche da adulti, i maschi siano poi stati in grado di formare forti legami affiliativi con altre femmine. A questo vorrei aggiungere che un'altra caratteristica ancora della famiglia e dell'organizzazione sociale dei bonobo potrebbe essere servita per la formazione delle famiglie ominidi, e poi umane, in cui madri e padri non soltanto spartiscono il cibo, ma collaborano nella cura della prole. Infatti, come scrive Cano, tra i bonobo la maggiore partecipazione del maschio alla cura dei piccoli, come pure in generale il minor grado di aggressività nella loro società, si ricollega a quello che definisce il prolungato attaccamento alla famiglia, in cui diventano intimi con i fratellini e le sorelline e con i compagni di gioco di quegli ultimi. Osserva che mentre gli scimpanzé maschi si estraniano e si allontanano sempre più dalle madri durante l'adolescenza, quando si legano ad altri maschi adulti e vengono assorbiti dalla loro compagnia, i bonobo restano spesso con le madri anche dopo essere diventati adulti. Perciò lo studioso scrive di non avere mai osservato una forte aggressività dei maschi maturi nei confronti dei piccoli. Al contrario, ha spesso visto maschi che facevano da babysitter. Più volte ho visto maschi portare i piccoli sulla pancia o sulla schiena per un po', riferisce. Talvolta la madre seguiva, tal'altra era assente e dava quindi fiducia al babysitter. Una volta, mentre osservavo un gruppo giunto sul luogo prescelto per nutrirsi, in lontananza risuonò lo sparo di un fucile. Un piccolo spaventato saltò in collo a un vecchio maschio vicino, il quale lo tenne stretto fra le braccia, guardando in direzione dello sparo.